Capitolo 147. Lino. Lino l'argivo non va confuso con Lino figlio di Ismenio, che Eracle uccise con la sua lira. Secondo gli argivi, Psamate, figlia di Crotopo, generò codesto Lino da Apollo e, temendo l'ira del padre suo, lo espose su una montagna. Il bimbo fu trovato e allevato dai pastori, ma in seguito i mastini di Crotopo lo divorarono. Poiché Psamate non riusciva a dominare il proprio dolore, Crotopo ben presto capì che essa era la madre di Lino e la condannò a morte. Apollo punì la città di Argo per questo doppio delitto, incaricando una specie di arpia chiamata Pena di rapire i neonati argivi ai loro genitori, finché un certo Corebo si incaricò di eliminarla. Una pestilenza si abbatté allora sulla città e, poiché il contagio pareva non volesse diminuire, gli argivi consultarono l'oracolo delfico che gli consigliò di propiziarsi Lino e Psamate. Essi offrirono dunque sacrifici alle loro ombre, le donne e le fanciulle intonarono inni funebri che ancor oggi si chiamano Linoi. E poiché Lino era cresciuto tra gli agnelli, chiamarono Arnis quella festa e Arneios il mese in cui la si celebrava. Ma la pestilenza continuava a fare strage in città, e allora Corebo si recò a Delfi e confessò di aver ucciso Pena. La pizia non gli permise di ritornare ad Argo e disse: «Porta via di qui il mio tripode e costruisci un tempio ad Apollo, là dove il tripode ti cadrà di mano». Il che accadde sul monte Gerania, dove Corebo fondò dapprima il tempio e poi la città di Tripodico in cui si stabilì. La sua tomba ancora si mostra sulla piazza del mercato a Megara. La adorna un gruppo di statue che illustrano l'uccisione di Pena ed è la più antica scultura del genere che si conservi in Grecia. L'altro Lino è chiamato anche Etolino e gli arpisti lo piangono nel corso dei banchetti. Un terzo Lino giace sepolto ad Argo. Egli fu il poeta che alcuni descrivono come il figlio di Agro e della musa Calliope e sarebbe così fratello di Apollo. Altri lo dicono figlio di Apollo e della musa Urania o di Aretusa, figlia di Posidone, oppure di Ermete e di Urania, altri ancora di Anfiarao, figlio di Posidone e di Urania, altri ancora di Magnete e della musa Clio. Lino fu il più grande musicista nato tra gli uomini e Apollo, invidioso della sua abilità, lo uccise. Egli aveva composto canti in onore di Dioniso e di altri antichi eroi, e li scrisse in lettere pelasgiche, scrisse anche un'epopea della creazione. Lino, insomma, inventò il ritmo e la melodia, fu uomo di grande saggezza e maestro di Tamiri e di Orfeo. Il lamento per la morte di Lino si diffuse in tutto il mondo e fornì il tema anche all'egizio canto di Maneros. Sul monte Elicona, chi visiti il bosco sacro alle muse, vedrà un ritratto di Lino inciso sulla parete di una piccola grotta, dove annuali sacrifici a lui offerti precedono i sacrifici alle muse. Si dice che egli sia sepolto a Tebe e che Filippo, padre di Alessandro Magno, dopo aver sconfitti i Greci a Cheronea, trasportò le sue ossa in Macedonia, obbedendo al suggerimento di un sogno, ma poi sognò di nuovo e rimandò le ossa di Lino a Tebe. Pausania mette in rapporto il mito del fanciullo Lino con quello di Maneros, lo spirito del grano egizio in onore del quale si cantavano inni al momento del raccolto. Ma pare che Lino fosse lo spirito della pianta omonima, Linos, seminata in primavera e raccolta in autunno. Lino aveva Psamate come madre perché, secondo Plinio, si seminava il lino in terra sabbiosa. Suo nonno era Crotopo, un assassino perché, sempre secondo Plinio, i giallastri steli del lino, dopo essere stati sradicati e appesi all'aria aperta, venivano maciullati dai piedi martellanti di pestelli di legno. Apollo, i cui sacerdoti vestivano di lino e che era il nume tutelare della musica greca, veniva considerato suo padre. La morte di Lino sbranato dai cani si riferisce evidentemente agli steli di lino tagliuzzati da accette di ferro, un procedimento che Plinio descrive nel passaggio già citato. Frazier, benché la sua teoria non sia suffragata da prove, suppone che Lino sia un'errata dizione greca del fenicio Ailanu, la disgrazia che ci sovrasta. Etolino significherebbe lino perito. Il mito, tuttavia, è stato ridotto allo schema abituale del fanciullo abbandonato sulla montagna per sottrarlo all'ira di un nonno invidioso e poi allevato dai pastori, il che ci fa supporre che l'industria del lino in Argolide fosse a poco scomparsa, forse in seguito all'invasione dorica o forse perché la produzione egiziana aveva invaso il mercato o, per ambedue, le ragioni. Tuttavia, ogni anno si continuarono a cantare inni in onore del fanciullo Lino. La coltivazione del lino fu introdotta probabilmente dai cretesi che colonizzarono l'Argolide. La parola greca che indica la corda di lino è merintos e tutte le parole terminanti in intos sono di origine cretese. Corvo, quando uccise Pena, punizione, probabilmente proibì i sacrifici infantili alla festa di lino e li sostituì con sacrifici di agnelli. Il mese infatti fu chiamato da allora mese dell'agnello. Egli è stato identificato con un elio dello stesso nome che vinse la prima gara podistica alla prima Olimpiade, 776 a.C. Tripodico pare sia un nome che non ha alcun rapporto con tripode, ma che deriva invece da tripodizein, incatenare tre volte. Poiché la raccolta del lino dava occasione al canto di inni lamentosi e a danze ritmiche, e poiché a mezza estate, a giudicare dagli esempi svizzeri e svevi citati da Frazier nel Ramo d'Oro, ragazzi e ragazze danzavano attorno ai falò perché gli steli del lino crescessero alti, fu inventato un altro mitico lino che raggiunse l'età virile e divenne un famoso musico, inventore del ritmo e della melodia. Questo lino aveva per madre una musa e come padre o l'arca de Ermete o il tracio Eagro, oppure Magnete, l'avo eponimo dei Magnesi. Egli infatti non fu un ellenico, ma il custode della cultura pelasgica pre-ellenica che comprendeva il calendario arboreo e una particolare concezione della creazione. Apollo, che non tollerava rivali in campo musicale, come dimostrò nel caso di Marzia, si dice abbia ucciso Lino a sangue freddo, ma si tratta di un'errata versione poiché Apollo anzi adottò Lino. In seguito l'uccisione di Lino fu più esattamente attribuita a Eracle, patrono dei barbari invasori dorici. Lino è detto fratello di Orfeo perché vi è una certa analogia nel loro destino. Nelle Alpi austriache, come mi fu segnalato da Margarita Schoenwels, gli uomini non sono ammessi alla raccolta del lino né al processo di essiccamento, frantumazione e filatura della fibra. Lo spirito che regola la lavorazione del lino è Arpace, una strega terrificante con viso e mani imbrattati di fuliggine. Qualunque uomo la incontri per caso viene da lei abbracciato, costretto a danzare, violentato e insozzato di fuliggine. Inoltre le donne che battono il lino, dette Beklerinnen, rincorrono ogni forestiero che capiti nel loro gruppo. Lo costringono a sdraiarsi, gli saltano addosso, gli legano braccia e gambe, gli massaggiano il viso e le mani con irritante polvere di lino e infine lo fanno rotolare giù per una collina. Presso Feldkirch si limitano a gettare a terra il viandante e a camminargli sopra, ma in altri luoghi gli imbottiscono i calzoni con polvere e steli di lino, il cui contatto è tanto penoso che il poveraccio è costretto a fuggire a gambe nude. Presso Salisburgo le Beklerinnen tolgono i calzoni ai viandanti e minacciano di castrarli. Dopo averli così messi in fuga, purificano la zona bruciando ramoscelli e battendo l'uno contro l'altro i falcetti. Si sa ben poco di quanto avviene nelle stanze dove si fila, perché le donne sono molto gelose dei loro segreti. Cantano, pare, un lamento detto Flaxesqual, tormento del lino, o Linenklag, lamento del lino. È probabile che le donne addette alla raccolta del lino usassero a salire e smembrare un uomo che rappresentava lo spirito del lino, ma poiché tale fu anche il fato di Orfeo, che protestò contro i sacrifici umani e le orge sessuali, Lino è stato descritto come suo fratello. La Arpach è un personaggio familiare. Si tratta della moglie contadina dello spirito del grano, rappresentante della dea terra. I falcetti vengono percossi l'uno contro l'altro soltanto in onore della luna. Non si usano per la raccolta del lino. Si attribuisce a Lino l'invenzione della musica sia perché i lamenti sopracitati pare uscissero dalla bocca stessa dello spirito del lino, sia perché le corde di alcune lire erano fatte di lino.